Buongiorno a tutti i miei giovani autrici di scrivere. Oggi sono qui con Carolina Capri, autrice di numerosi libri per bambini e collane famose come La Madre del Polpette, Gioca Inna, che hai scritto con la tua migliore amica, giusto? Sì, esatto. Bene, infatti. Però questa volta hai cambiato un po' genere, diciamo. Nel senso che questi bambini sono cresciuti in questo libro. Sono cresciuti, esatto. Sono un po' cresciuti. Come mai questa scelta? Da dove hai avuto l'idea? Credo che venga da una idea. Sono sempre ragazzi, a me piace molto scrivere di ragazzi, mi piace tanto la parte, quella parte della vita. La crescita. Sì, quando mi arriva una storia in mente, aspetto di trovare ragazzi. E qua sono un po' più grandi, perché volevo provare ad ascoltare una parte della vita e quindi ho dovuto per forza alzare un po' l'età dei protagonisti. Una parte della vita anche un po' più complicata, sì, forse. Assolutamente, non spensierata. Esatto, hai scelto un tema molto particolare, perché comunque gli studi alimentari è un tema controverso. Come ti sei avvicinata a questo tema? Per cercare di capirlo e di raccontarlo? Ho letto tantissimo, ho ascoltato un sacco di ragazze. La voglia di scrivere di questo tipo di problema mi è nata facendo volontariato in ospedale almeno 10 anni fa. Ho conosciuto una ragazzina che era ricoverata nel reparto di pediatria, non era pure specifica. E vedendola ho visto questa leggerezza e questo suo stare al mondo in un modo diverso, questa gestione parte di un altro mondo, non del nostro. Mi è rimasta un po' la voglia di raccontarlo, poi è passato un po' di tempo. Hai fatto maturare questa storia in un sacco di tempo. Sì. Hai detto che hai parlato con un sacco di ragazze. Sì. Le ragazze hanno letto il libro poi quando hai non lo so, non lo so. Non lo so, nel senso che ho ascoltato un sacco di storie, me ne sono anche andata a cercare molte, perché moltissime si raccontano, no? Dei diari online, sia video, come anche video, quindi molti me li sono cercati. E poi ho provato ancora a dare un approccio un po' più scientifico, quindi ho un po' studiato, per non, anche perché poi per tutto un argomento estremamente dedicato alla voglia di non dire delle scemenze, sì, e mantenersi rispettosi del dolore. Sì, grande. Infatti. Ma in questa storia è morta un po' d'anima che c'è tesoro anche. Sì. Mi hai detto che vuoi parlare di crescita, c'è un parallelismo, qualcosa da vedere o ti piaceva solo l'idea di un piccolo giallo? In realtà non credo che sia fondamentale scoprire chi è, c'è un giallo, una struttura del giallo, non ti importa in fin dei conti. Mi piaceva l'idea che fossero impegnate fisicamente in qualcosa, volevo questo, perché sono delle ragazze che fino a un certo punto della vita, quando le conosciamo noi, considerano il corpo come una figurina. Ha solo guardato, ha solo un aspetto, invece volevo che lo usassero, e quindi avevo bisogno di farle andare in giro, di farle pedalare, di farle correre, volevo che usassero il corpo e di cominciassero a capire che sono cose da quello. Ma immagino, soprattutto nel contesto del libro. Ma a te sta molto a cuore anche il tema della femminilità, soprattutto in letteratura. In questo caso abbiamo a che fare, tu hai questa pagina in cui parli appunto la femmina, parli di libri che sono stati scritti da femmine. E ti parli anche di come le femmine spesso sono viste come il termine femmina, visto come meno di maschio. In questo libro vediamo delle femmine che vogliono quasi ridursi in termini. Hai parlato di questa cosa anche in questo libro? Non hai voluto parlare di tema? Sì, ho voluto parlare di come è difficile, come si schiaccia. Adesso ci sono più le ragazze che cominciano ad avere un corpo da donna e a essere donne, che se ne sentono. Però volevo raccontarle in purezza, non so come dire, tutto all'inizio, volevo far vedere come sono, però non volevo in alcun modo giudicarle, volevo far vedere che tipo di pressioni, anche quali piccole cose incidono tanto sulla mente, sul corpo delle donne, quante siano le pressioni sociali. Veramente tanto, effettivamente. E poi erano tutte corpi diversi, e quindi è un'altra cosa che si vede tanto, sì, non è un tema solo, non è uno stereotipo. Non ci sono veramente corpi diversi. Sì. Bene, ti chiedo allora un po' nel futuro, poi finiamo qui. Cioè, è un nuovo filone? Sì. Vuoi iniziare a parlare di bambini più grandi? O troverai a parlare dei bambini? Parlare ai bambini lo smetto. Okay. Nel senso che quello, a me piace farlo, quindi non smetterò di farlo mai. Mi piace la spensieratezza dell'infanzia, mi diverto. Se ci saranno altre storie, poi è successo veramente una storia di gruppo, non stare a casa, quindi deve succedere così, succederà volentieri. Sì, sono avventure, diciamo, attendi l'avventura. Esatto, sì, va bene, grazie mille per essere stato con noi. grazie a tutti quelli che ci hanno guardato e arrivederci.